Vi sono parole che usiamo comunemente e che tuttavia racchiudono gelosissimamente il loro segreto. I dizionari etimologici a loro proposito tacciono, scantonano via veloci, facendo finta di niente, e noi per lo più ci accontentiamo. Non riusciamo a risalire di una virgola oltre il significato che attribuiamo loro e ci rassegniamo a non saperne mai più nulla della lontana costruzione mentale che sicuramente alle loro spalle c'è. È il caso della parola misura. L'artista medievale, raccontano Rudolf e Margot Whitcower in Nati sotto Saturno, l'artista medievale era un salariato, lavoratore manuale, se la cavava come poteva al fondo della scala sociale. Il prezzo della sua opera veniva calcolato in base ai materiali impiegati, alla dimensione, perfino al numero delle figure rappresentate e soprattutto al tempo occorso per la realizzazione. In claustrofilia, Elvio Facchinelli fa notare quanto sia impressionante il prolungamento della durata del trattamento psicoanalitico. Già ai tempi di Freud il rapporto tendeva a crescere nel tempo, mentre diminuiva la frequenza delle sedute settimanali da 6 fino a 1 e diminuiva la loro durata da un'ora fino ad una quarantina di minuti. Più passavano gli anni e più l'analisi acquisiva i caratteri dell'interminabilità. Notava Facchinelli che paradossalmente il fenomeno era quello di un apparato scientifico che, a suo parere, guadagnando in perfezione e complessità, necessitasse di un tempo sempre maggiore. E di denaro, perché Freud ha sempre sostenuto che senza pagamento niente analisi, come se il denaro che passa dalla tasca del paziente a quella dell'analista fosse la prima garanzia della bontà dell'analisi. Già nel 400 molti artisti fiorentini cominciarono a ribellarsi alle regole della corporazione cui con altri lavoratori manuali appartenevano. Brunelleschi per esempio si rifiutò di pagare il balzello alla corporazione e per questo finì dritto in galera. Ma per pochi giorni, perché ormai si stavano delineando, diciamo così, le condizioni in cui l'artista avrebbe potuto liberarsi della corporazione stessa, cosa che puntualmente avvenne, orientandolo verso stili di vita nuovi. Non più alzarsi al mattino presto per andare a firmare il cartellino in bottega, vita da pre-bohemien, stravizi, notti bianche, tempo libero per il cosiddetto ozio creativo. Il prezzo della sua opera si disincagliò ben presto dal tempo occorso per la sua realizzazione e andò parametrandosi su quell'artisticità che tanto filo da torcere ha dato a tutti coloro che da quei giorni in avanti hanno tentato di definirla. Un'artisticità che Leonardo, con pochissima vedutezza tecnologica, individuava nell'inimitabilità. Accettando condizioni un po' imbarazzanti per chi le poneva nei giorni scorsi, ho accettato di tenere una breve relazione ad un convegno di psicologi. Mi avevano chiesto di parlare per primo, di non partecipare al dibattito conclusivo. Non solo, avrei anche dovuto inviare preventivamente la mia relazione in forma scritta e ovviamente, non avrei percepito una lira. Messe così le cose, ho accettato al volo. da libero, da non corporativizzato, mi ha sempre divertito vedere uno psicologo in difficoltà, ma vederlo in una sorta di difficoltà preventiva, diciamo che mi divertiva ancora di più. Di psicologia si comincia a parlare negli ultimi anni del Cinquecento, ma ci vogliono almeno 3 secoli per farne una scienza e una professione. 3 secoli in cui si pongono delle condizioni per il controllo dello Stato sul cittadino che portano a legittimare la colonizzazione della memoria altrui e l'incistamento delle categorie della scienza psicologica nell'autorappresentazione della gente. Che ne possano dire gli psicologi, le loro origini sono queste, e non è difficile ancora oggi scorgerne le tracce in ciò che essi dicono e fanno. Una certa buona dose di paura gli si confà. Perdere il potere ottenuto, doverlo negoziare con altri che aspirano a dividersi con loro la torta della patologizzazione della società, dover constatare che i propri apparati metodologici vacillano o che, mentre loro si sforzavano di guardare altrove, erano già miseramente crollati. Se le origini della parola misura rimangono troppo lontane da noi per recuperarne il senso, presumibilmente tuttavia sia misura che metro hanno avuto a che fare con la divisione dei terreni, presumibilmente. Tuttavia, dalla cultura romana fino alla nostra, il suo significato è sempre stato quello di porre un rapporto tra due grandezze cui si sia attribuito un valore numerico, no? Intitolandosi Misurare l'immateriale, dunque, il convegno a cui ho moderatamente partecipato proponeva un giochino concettuale intelligente soltanto all'apparenza. In realtà, l'ennesima riproposizione di una metafora irriducibile a qualsiasi operazione effettivamente realizzabile e l'ennesima manifestazione involontaria di una paura storica degli psicologi, quella di rappresentare, a fronte di scienze che sulla raffinatezza delle misure hanno posto le basi per il loro successo, di rappresentare la parte di un parente povero e fine un po' tonto che mai è riuscito ad affrancarsi dal mago, dal confessore e dal questurino, tutte categorie di persone che per ottenere i loro risultati non hanno poi bisogno di tanto sapere. Prima o poi, per certi versi ci sono già adesso, prima o poi gli psicologi scopriranno che possono fare a meno dell'orologio e delle frequenti sedute con il cliente. Si faranno pagare per l'irripetibilità della loro procedura e di quei processi interazionali in cui riescono a coinvolgere il cliente. L'analisi si trasformerà in terapia come la materia bruta, si dice sempre così quando si vuol far salire un prezzo, no? Come la materia bruta si trasforma in opera d'arte. Così, al contempo gli psicologi si libereranno delle loro corporazioni e dalle nuove condizioni trarranno nuovi vantaggi. Tempo libero a iosa, più denaro, più prestigio, forse meno paura. A differenza degli incauti che capiteranno nei loro negozi, che pagheranno prezzi maggiori essendone ciò nonostante più contenti, ripercorrendo le tappe dell'evoluzione dell'arte, meno lavoro, più aura, o anzi, niente lavoro, tutta aura.